E quindi ho il piacere di ospitare questi poeti, artisti e terapeuti in questa nostra sede, dove facciamo delle arti terapie, e tra cui tra le altre, emerge anche la poesia o terapia. E quindi sono curioso anche di sentire quello che loro ci diranno, perché penso che sia fondamentale anche fare dei confronti tra i diversi orientamenti culturali. Si sente perché è una voce un po' soffocata. Sì. Perché è importante fare dei confronti. E anche dei confronti non strettamente tecnici, ma anche del modo con cui si leggono dei testi. La lettura ad alta voce, che caratterizzava l'antica Grecia, adesso mi viene in mente, è accompagnata dalla musica, era un'arte, quindi è un'arte che rende che crea la poesia, che pone la poesia come un cristallo di un anello, su un apparato di sostegno. Per cui entro un po', per non essere noioso, direttamente nello specifico. Quando anche la poesia non è letta ad alta voce, che richiede anche una capacità particolare di articolazione, la lettura puramente mentale, ammesso che esista una lettura puramente mentale, in ogni caso se uno la legge è visivo mentale, ma insomma questo è molto riduttivo, una lettura mentale ripropone le stesse esperienze che nascono, possono nascere da un ascolto di lettura ad alta voce con e senza accompagnamento musicale. E questo perché nella lettura ad alta voce c'è una guida all'ascolto differenziato del significato delle poesie, delle liriche, ma poi nella lettura cosiddetta mentale, la capacità di rievocare, di richiamare, di collegare è assolutamente personale. È al solito la persona che riscrive nella propria esperienza quello che gli suggerisce una pagina scritta. Quindi, questo perché noi partiamo da una modellistica fondamentalmente. Ah, volevo dire, mi ha sempre colpito il fatto che i poeti, molti poeti, non è che ne abbia ascoltati tanti, ma quando leggono le loro poesie ricordano con i bambini della scuola media che insistono sul ritmo e sul verso. Questo è incredibile. Uno si prepara all'ascolto di un poeta che legge le sue poesie, ma perché la loro batteria e il loro basso che muove tutta la sequenza narrativa è fondamentalmente ritmica. Sia che si tratta di ritmi consolidati nel tempo, legati alle culture, all'epoca, sia che si tratta di ritmi nuovi, innovativi, che nascerebbero da un'organizzazione del verso, della parola, che organizza poi la prosodia medesima nella loro pronuncia. Ok. Questo per comprendere come una poesia sia composta di più elementi insieme, che vengono unitariamente decodificate. E la pedagogia dell'ascolto, ammesso che ci sia una pedagogia che non sia un fatto soltanto istintivo dell'umanità, molto più avanti probabilmente degli presunti o presuntuosi pedagoghi, come noi pensiamo di essere, non, potrebbe educare, accogliere, a individuare insieme, durante una fase di differenziazione, di autoascolto o di ascolto, le componenti stesse di una poesia. Perché è facile che la poesia diventi una base di idee, di rappresentazioni visive, partendo particolarmente, qualche volta magiche, qualche volta molto realistiche, esiste una poesia civile, come esiste una poesia incivile. Ma questo gioco di associazioni è la parte che unifica un po' tutte quante, ma non può dimenticare la componente strutturale preverbale, ovvero se non verbale, ritmico-prosodica della poesia stessa, che è intrinseca all'espressione poetica. Perché io, mi viene spesso in mente, se un cronachista, un cronista, cronachista non è neanche un neologismo, una gaffa comunicativa, se un cronista raccontasse la sua storia e dicesse che a 35 anni aveva avuto una crisi che tutto gli era confuso, oscuro, eccetera. E invece dice nel mezzo del cammin di nostra vita, c'è una differenza abissale tra il ritmo, la presentazione, il modo con cui l'ascoltatore o il lettore si incontra con la sequenza delle immagini o delle parole, e, di nuovo organizzazione cosiddetta poetica, che ha una sua compattezza intenzionale ed espositiva, e poi invece la semplice cronaca narrativa. Qualche volta la cronaca narrativa diventa, così com'è, nuda e cruda, poesia, senza molti sforzi. Ma perché cambia anche il modo di presentare la cosa, diventa diverso il rapporto con l'oggetto che si tende a esaminare. Come succede per le volte, per l'arte moderna, in cui qualche volta in modo puramente commerciale, in cui un oggetto consueto però diventa oggetto estetico, è perché impone nel momento di contatto dell'osservatore dell'oggetto un atteggiamento completamente diverso. E l'atteggiamento di ascolto è o di visione è assolutamente fondamentale nel definire e decodificare il messaggio, chiamiamolo messaggio. C'è gente che non soffre la parola messaggio perché, non so, perché lo confonde con massaggio, rischia di addormentarsi. Sì. Allora questa nostra componente, cioè non è una componente, questa nostra visione dell'utenza poetica è sostanzialmente psicofisiologica, perché di fatto condensa l'esperienza corporea reattiva, che naturalmente non può essere così schematizzata nel semplice ritmo. Nel ritmo, la nostra definizione di ritmo è ricomparsa periodica di un'esperienza attesa, acustica. Facciamo un esempio delle figure di angeli messi come una teoria di angeli in un mosaico bizantino. Un angelo, adesso aspetta un altro angelo, un altro angelo. Questo è un ritmo, è l'attesa di che cosa? Di una tensione osservativa che si risolve attesa. Che cosa verrà? L'angelo. Che cosa verrà? L'angelo. Questa ricaduta continua e ripetitiva è la base. E il ritmo è un'esperienza strutturalmente psicofisiologica. Ma questa base ritmica, che è caratteristica di ogni forma poetica, a sua volta non è l'unico elemento corporeo. L'elemento corporeo è l'associazione, no, il vissuto generato dalla immaginazione, dalla immagine visiva, sia essa sola e pregnante, sia che dia luogo ad altre associazioni, che è un altro capitolo importante della poesia terapia, ma di per sé ogni rappresentazione mentale è strettamente collegata con l'organizzazione del vissuto, delle tensioni corporee. E quindi una rappresentazione, adesso parlerà dell'infinito, non so di che cosa, no, no, del finito? Hai finito di parlare dell'infinito? Sara, dunque questa, ogni rappresentazione corporea può creare diverse situazioni emotive. Se il ritmo lo introduce in questa percezione organizzata per attese e risoluzioni. La semplice rappresentazione visiva o acustico-visiva dà luogo a dei vissuti del tutto particolari legati al contenuto medesimo. Parlando dell'infinito, per me viene in mente, già il termine infinito evoca delle sensazioni corporee specifiche, che non quello di finito, finito, finito. E dico finito in una versione acustica, sottolineandola, ma infinito, per quanto uno possa essere definito nell'articolare la parola, il termine stesso evoca a uno spostamento indefinito dei confini. Allora questo, l'infinito, oppure la sofferenza, l'immagine di dolore, la vecchiaia, la giovinezza, tutto quello che si rappresenta, cosa, evoca dei vissuti corporei perché si riproduce, secondo la nostra teoria, si riproduce nel proprio corpo ciò che lo stimolo ha portato di strutturalmente psicofisiologico e quindi psicologico-emotivo, di conseguenza. Questo è il nostro orientamento, ma io non vorrei annoiarvi ancora dicendo che sono ben contento della vostra venuta e vi ascolterò con interesse e cedo la parola a Sara, che presenterà il nostro modo di lavorare. Ah, loro inizialmente? Sì. Ah, benissimo. Non so, credo che sia interessante. No, non perché non sia interessante quello che di la Sara. Sì, sì, sì, c'è tempo. Ma anche io introducendo il lavoro di Laura. Laura credo che sia È successo con il nostro psicopoeta Gabriele Marciano, che si leggesse un... è successo con il nostro, diciamo, psicopoeta Gabriele Marciano, che leggesse una volta, che si leggesse una volta una sua poesia con sottolineature all'interno del ritmo prosodico che gli facevano scoprire la poesia stessa. A me è successo di avere una sensazione simile vedendo dirigere una sinfonia di Mozart, come si chiama? Veramente questo famoso direttore d'orchestra. No, è stato giudicato il massimo da 10 operatori, da 10 direttori d'orchestra, quindi adesso. No, Volkan si candida lui con il suo temperamento. No. Dico, se Mozart assistesse a questa esecuzione, direbbe, colpo, ma guarda il diavolo che cosa ho scritto. Che cosa ho scritto? È una sensazione che mi ha accompagnato per tutta la nostra... Ma che ti dici, Wolfgang, che ne dici di questo? Sì, mi stupisce quello che ha scritto lui. Allora, adesso cedo la parola ai nostri ospiti, o a Sara che coordinerà, o anche alla nostra poetessa. Che... Sì, ok. Grazie mille. Allora, contestualizziamo, quindi qua siamo alla sede della EPCIS, il professor Ruggeri ci ha introdotto il metodo che lui insegna e oggi abbiamo qua due poetry therapist, per dirla all'americana, come d'altro canto questo manuale di... Non di poesia, non avete tradotto poesia terapia? No, perché ormai a livello internazionale si usa poetry therapy, e siccome therapy. Poesia terapia in realtà... Poesia terapia, non avendo uno storico dietro, abbiamo preferito preservare il nome come è conosciuto, come è arrivato in Italia di fatto e si è affermato in Italia e come è diffuso a livello internazionale. Quindi questa è stata una scelta di campo sul piano però proprio di traduzione, perché la domanda era lo traduciamo come poesia terapia o come poetry therapy, quindi alla fine della riflessione abbiamo deciso di preservare il nome così come a livello internazionale. Quindi ho conosciuto Dome 10 anni fa in un evento in cui lui parlava di poetry therapy e mi stupì molto perché insomma non se ne parla, non è che tutti i giorni si parla di poetry therapy. Io stessa mi stavo occupando e quindi ho detto: ah, un altro che la fa. E, però volevo partire un attimo da un passo indietro. Sì. Mi sono sempre chiesta perché ci sono le scuole d'arte, le scuole di musica, le scuole di arti e non c'è la scuola di poesia. Loro di Mille Gru ne hanno appena fondata una. Che non è l'unico, stanno fiorendo scuole di poesia, anche qua a Roma ci sono altri, un altro paio di case. E poi mi sono sempre domandata, ma lavorare con la poesia che cura, ma chi l'avrà fatto, da dove sarà venuto, qual è la storia? E loro pubblicano il manuale che racconta la storia, traducono questo manuale che ha scritto Nicola Smazza, che racconta la storia della poesia terapia e le pratiche. E quindi un altro, insomma, questi di Mille Gru sono proprio forti, ragazzi. Poi c'è la rivista. E poi c'è la rivista, hanno appena fondato una rivista di Poetry Therapy in cui chi si occupa di Poetry Therapy è invitato a raccontare le proprie esperienze. Quindi, insomma, c'è questo grande fermento. Mi sono scritta due appunti, ma sarò brevissima. Per parlare del libro, che per quanto mi riguarda, per me è stato un po' come quando il tuo armadio è in disordine, arriva qualcuno e te lo mette a posto. Quindi all'inizio qualche un po' di fastidio, dopodiché aspetta, armadio a posto, vedi, se vuoi una cosa gialla c'è la scala cromatica, ok. Quindi insomma, dopo un primo impatto di rigetto, anche se poi questa cosa di sistematizzare anche un po', cioè come se la poesia in qualche modo fosse fuori da questo, proprio per, non ci sono scuole di poesia anche un po' per questo, la poesia è un po' quella arte, il poeta è quello che sta fuori, che si coltiva le verrughe sul viso, quello che ha lo sguardo esterno proprio perché riesce a vedere meglio le cose, mentre se stesse nel sistema sappiamo che... E quindi, però non credo che ci sia questo rischio, anche sistematizzandola, anche istituzionalizzandola, diciamo così, perché comunque la poesia da sola si protegge con meccanismi... Si protegge perché non muove denaro, per cui si protegge... è un aspetto importante, è un aspetto importante, sì, infatti rimane libera, sì. E quindi... io all'università avevo capito che la poesia era morta, perché tutti i critici parlavano così, la poesia è morta, la poesia è morta, l'arte è morta, tutto quello che si fa adesso non c'ha senso perché è stato tutto già fatto. E invece poi ho scoperto anche che non è vero, perché per esempio Nanni Palestrini, che diceva in una sua poesia la poesia fa male, però scherzava, perché lui sapeva benissimo quanto facesse bene. E lui, una volta io a lui gli ho chiesto proprio, perché lui a leggerlo era... ha scritto, bella. Ha scritto cose anche volendole vedere devastate, cioè comunque post-apocalittiche, con il senso che sembra svanito, invece no. Gli ho chiesto se per lui la poesia fosse morta. E lui mi ha guardato come dire, ma che domanda fai? Ma finché ci sarà vita ci sarà sempre poesia. E quindi vabbè, insomma... non c'entra molto col manuale, ma c'entra, sempre per dare delle coordinate. Quindi loro stanno presentando questo libro per mettere insieme un filo rosso, diciamo, e poi verrà presentato il mio di libro, perché comunque con quel libro mi sono molto curata e dopo mentre lo facevo e dopo averlo fatto ho deciso di fare il master di arte terapia qui alla EPCIS. Bellissimo, grazie a tutti. Sì, mi è malata, no? Sì, ma non si guarisce mai del tutto. Il punto è come stare male. Quella è la cura vera. Esatto. Come stare male. Come preservarsi malato, ma non troppo. Sì, come stare comodi male, come stare meno male possibile. Poi, vabbè. Non si può vedere la smagliatura nella rete, il cavallo stramazzato. Oppure bisogna esporla come un trofeo, sì. Insomma, qui ci sarebbe tanto da parlare, sì. Ma io do la parola. La parola chiave, meno male, no, che meno male che risolve, ma nello stesso tempo c'è meno male, ma non completamente risolto, che ti permette di sentirti vivo. Esatto. Potrebbe essere il titolo di un prossimo lavoro, meno male. Meno male. Ah sì, poi scusa, finisco brevemente dicendo che questa... magari presentaci un po' anche loro. Sì, certo, certo, naturalmente. Volevo solo dire che per me la poesia è celebrare il momento presente, è un modo per celebrare il momento presente, è una sorta di educazione al momento presente. E il momento presente è nel corpo, e qui mi riallaccio al modello di Ruggeri, che comunque lavora molto su quello. Loro sono Dome Bulfaro e Giacomo Nucci. Sono di Milano e fanno parte di Mille Gru, che è una casa editrice che traduce libri come questo, ha scritto anche libri sempre di poetry therapy per lavorare con i bambini, con gli adulti, le loro esperienze insomma raccontano, e hanno fatto questa scuola da poco, adesso loro stessi ci diranno. Lui è anche uno dei più attivi poeti performativi, anche a livello di slam. Qua ci abbiamo una compagine che è venuta al suo seguito, una compagine molto wow si chiama Wow Incendi Spontanei, e da seguire, seguite, e poi seguite. Vi presenterete, seguiteci, prego, presentatevi anche da soli, dite. No, quello che hai detto è più che sufficiente. Noi due rappresentiamo questo gruppo di ricerca che è formato da 15 persone, che è nato nel 2006 e ha subito sviluppato un'idea di poesia a 360 gradi, che vuol dire che ha fatto una serie di... ha organizzato subito la propria attività non in un festival ma in una stagione poetica che si sviluppava lungo tutto l'arco dell'anno, a più livelli, quindi sia in uno spazio teatrale ma anche nella scuola, attivando laboratori, cercando di lavorare sia sulla scrittura poetica, sulla poesia detta ad alta voce, e dal 2009 anche facendo poesia terapia. Abbiamo iniziato negli ospedali, l'ospedale di Lecco in particolare, abbiamo fatto un'azione che si chiamava Poesia con Cura, e poi abbiamo sviluppato tutta una serie di azioni anche a Lugano. Ospedale generale? A seconda degli ospedali, in alcuni reparti condivisi e decisi insieme al primario dell'ospedale, che attivava, diciamo così, sposava il progetto, e poi l'azione avveniva o sui degenti. Adesso è un progetto che è durato un po' di anni, quindi vado a grandi linee, o sui degenti o sulle persone che si occupano dei degenti, quindi volontari, personale, infermieri, medici, oppure anche sulle famiglie che in realtà in modo indiretto subivano un trauma attraverso la malattia del proprio caro. Poi abbiamo lavorato negli hospice, quindi molto anche con i malati terminali. In particolare c'è stato un progetto che è durato un anno, che per noi è stato molto significativo, dove abbiamo lavorato con l'intero nucleo familiare, di nuclei familiari che avevano perso un genitore in modo traumatico, che poteva essere in modo più assiduo proprio attraverso il tumore, quindi uno dei due genitori veniva meno, oppure attraverso incidenti stradali, insomma in questo tipo di condizioni. Lavorando non solo, io faccio fatica a chiamarmi poeta terapeuta perché non c'è nessuno che potrebbe dire che esiste in Italia un poeta terapeuta, non c'è un ente che ti può riconoscere questo ruolo, e tantomeno me lo voglio riconoscere io per primo, sono solo in imbarazzo solo a pensarlo, questa cosa. Mi occupo sì di poesia terapia, e cerchiamo il più possibile di divulgare queste pratiche e di far sì che in queste occasioni o in varie occasioni si apprenda sempre più delle pratiche che abbiamo verificato in più occasioni, in più situazioni, che sono effettivamente molto positive per le persone con cui abbiamo lavorato, abbiamo fatto, applicato queste pratiche. Di solito in realtà cerchiamo di lavorare con esperti quindi in equip, non singolarmente. Per esempio nel caso che vi stavo nominando, citando prima, del nucleo familiare dove c'erano bambini, preadolescenti, il genitore superstite e i nonni, quindi lavorando con tutto il nucleo familiare, lì c'era un'intera equip, c'era lo psicologo, c'era il poeta terapeuta, c'era l'arte terapeuta, c'era il teatro terapeuta, c'era un educatore, c'era un esperto, insomma, c'era un'equip che lavorava e che seguiva l'intero nucleo, e al nostro interno stiamo acquisendo, come mille gru, stiamo cercando di acquisire delle figure che abbiano delle competenze, quindi siano psicologi o siano psichiatri, e quindi al nostro interno già riusciamo ad avere un'equipe che possa intervenire in modo più strutturato ogni volta che facciamo degli interventi nelle scuole, con i bambini o con gli adulti, insomma, perché come potete immaginare, quando si parla di poesia terapia, in realtà si entra in un ambito talmente vasto. Io adesso vi ho citato, non so, gli ospedali, ma un conto è lavorare in pediatria, un conto è lavorare in una casa di riposo, un conto è lavorare con chi è tossicodipendente, un conto è lavorare in un hospice. Servono delle competenze talmente vaste e varie che nessun essere umano sulla terra può avere. Quindi lavorare in equipe è sempre molto, veramente importantissimo, e saper lavorare anche in equipe. Quindi noi in realtà portiamo come voi la nostra piccola esperienza fatta in prima persona o come gruppo, e cercando invece di portare, e questo è il nostro principale sforzo in questo momento, attraverso la pubblicazione del libro, attraverso l'azione della rivista, di fare letteratura sull'argomento, cioè di divulgare le pratiche, non nostre, ma le pratiche, le buone pratiche che sono avviate in Italia e all'estero, di farle conoscere, di condividere, di mettere in relazione i terapeuti che appartengono a più aree di ricerca, quindi l'arte, la musica, e di farli il più possibile dialogare e far apprendere in più direzioni. Questo è un po' il nostro lavoro. Quindi la scuola di poesia, che è incentrata in realtà molto sulla poetry therapy e sulla poesia ad alta voce, le pubblicazioni e questo libro in particolare, la rivista, vanno tutte in questa direzione. Questo è il nostro sforzo come gruppo, ed è uno sforzo che abbiamo pensato che fosse uno sforzo utile per un bene comune. Diciamo, il gruppo lavora pensando a come produrre cultura, che vuol dire far sì che le sinergie migliori a livello italiano e internazionale entrino effettivamente ancora di più all'ennesima potenza a portare qualcosa di positivo agli altri. Quello che noi facciamo lo facciamo cercando fondi, e quindi non restando vincolati a meccanismi economici che spesso non permettono la migliore buona azione, e quindi cercando il più possibile di finalizzare l'aiuto all'altro e a se stessi, quindi avviando processi di guarigione e autoguarigione, non vincolandoci al problema della sussistenza economica, che vuol dire trovare fondi, trovare fondazioni che possano appoggiare questo tipo di attività, fare bandi, in modo tale che per esempio non ci sia il problema di pubblicare il libro e che la non vendita del libro determini la chiusura, per esempio, dell'associazione, insomma, che non ci sia il bancarotta, ecco perché. Quindi cerchiamo il più possibile, perché come potete immaginare la nostra associazione, come tutte le grandi realtà, non vive di vendita libri. Però la vendita dei libri è importante, perché va poi tutto noi, diciamo così, tutto quello che incameriamo, e anche la vendita di oggi, per esempio, serve a sviluppare nuove linee culturali di questo tipo. Però non so adesso cosa. Noi in realtà, ecco, lo dico perché non siamo portatori di una teoria precisa, come in questo caso, anzi, semmai noi quello che possiamo fare è il più possibile dare una piattaforma perché queste teorie vengano più facilmente diffuse e conosciute. E quindi, per esempio, nel suo caso e anche adesso con Sara, magari sarebbe fantastico che anche lei magari scrivesse un articolo oppure ci indicasse un articolo che è importante far conoscere, da pubblicare in questa rivista online, che è gratuita e quindi si può tranquillamente poi visionare e leggere gli articoli e mettere in rete. Ecco, quello che stiamo cercando di fare adesso è di mettere far rete tra queste mosche bianche che lavorano in più punti d'Italia, ne abbiamo individuate diverse dalla Sicilia al Trentino Alto Adige, e poco alla volta la stiamo mostrando delle esperienze che secondo noi sono significative. Sono esperienze, tra l'altro, o vissute in prima persona, dove per esempio ci sono persone che raccontano come la poesia le abbia salvate dal suicidio, per esempio, e quindi raccontano non di pratiche che sono state esercitate su altri, ma come i benefici che la poesia ha avuto su se stesso, proprio in termini anche appunto come può essere diffuso nella musica, in una dimensione musicale, nella dimensione proprio salvifica, in senso stretto, ma o anche proprio di studi, per esempio collegati a che tipo di ricaduta ha la metafora, come viene utilizzata la similitudine, dove è stata utilizzata, quali sono le esperienze che sono state portate, che sono avvenute a livello internazionale. Ecco, il libro di Nicolas Mazza organizza appunto questi materiali. Cioè comincia a indicare, è un manuale, è uno dei manuali tenuti in altissima considerazione a livello internazionale, non solo negli Stati Uniti, ma un po' da chi fa poetry therapy. Quello che ci sembrava importante era andare a coprire un vuoto culturale enorme, e quindi fornire in italiano questo manuale in modo tale che ci si cominciasse ad orientare in modo più organizzato. E quindi uno dice: sì, è vero, io ho la maglietta della poesia di terapia, ho i jeans, ma effettivamente queste mie esperienze potrei iscriverle all'interno. Tornando all'armadio con i vestiti. Potrei effettivamente iscrivere in un armadio molto più grande e quindi ritrovare risonanza e capire come la mia esperienza può essere migliorata e come la mia esperienza però può far migliorare altre esperienze analoghe. E quindi questo è il libro distribuito su Amazon, lo trovate tranquillamente, lo potete anche in libreria si può ordinare. Anche in libreria si può ordinare. Noi abbiamo non abbiamo un distributore nazionale. Non è così scontato. E abbiamo un distributore però che copre la Lombardia e parte della insomma un po' fuori dalla Lombardia, diciamo. La Padania, non siamo leghi, era una battuta. Anche perché ormai la Lega è arrivata oltre fino alla Sicilia, ormai ha spostato di volta in volta, sposta il confine. Però in realtà su online e chiedendolo dalla libreria si può farlo arrivare, quindi questo è importante. Poi faccio parlare Giacomo perché sennò adesso qua. No, perché Giacomo è nel gruppo di Mille Gru da 3 anni, invece io essendoci dal 2006, diciamo così, un po' più sott'occhio lo storico, ma certo. Ho disegnato a sommi capi l'attività di Mille Gru in questi 14 anni e anche un po' introdotto il libro. Lascerei invece la voce a Giacomo. Perché uno, così almeno entriamo un po' nel merito del confronto di teorie diverse, una delle esperienze che viene raccontata in uno di questi capitoli è il metodo RES di Nicolas Mazza. Quindi lui è un pioniere, insegnante, accademico, universitario, un pioniere della poetry therapy in America e fa poetry therapy da più di 40 anni. È indicato negli Stati Uniti come uno dei pionieri, quindi anche proprio una figura istituzionale riconosciuta, e racconta di tanti metodi utilizzati all'interno della poetry therapy, anche di come la poetry therapy abbia preso una propria autonomia rispetto alla biblioterapy, quindi come ci sia stato una sorta di scisma tra virgolette, e di liberazione per trovare una sua struttura, una sua identità libera dalle pratiche biblioterapy, e però ha ideato questo metodo che si chiama RES, e c'è un capitolo tutto dedicato a questo metodo. Ideato nel senso di strutturato. Strutturato, perché, sì. Perché quello che uno magari fa normalmente, cioè per esempio la lettura di un testo, certo, e la stimolazione di una risposta nei partecipanti, per esempio a un laboratorio. Si fa. Sì. Sì, già, insomma. La strutturata, diciamo, la. Non è poco. No, sì, assolutamente. Però non l'hai detto. A proposito, certo, di arte. Certo, sì, sì, no, sì. Però l'atto creativo, secondo me, sta proprio nella volte organizzare cose, sì, che esistono. Sì. Quindi, Santo insegna. No, però in questo caso lui, che è anche direttore del giornale di Poetry Therapy, The Journal of Poetry Therapy, e vi consiglio di abbonarvi se siete interessati a questo argomento. Uno degli elementi caratterizzanti degli articoli che vengono ospitati in questa rivista è che chi scrive l'articolo deve presentare una metodologia riproducibile, cioè in modo che chi legge questo articolo riesca a riprodurre in propria autonomia un metodo che va da A a B, da B a C, da C a D, perché gli americani hanno tanti difetti, ma su un aspetto sicuramente molto buono è che sono molto pratici e sono pragmatici, quindi magari trovate meno teoria rispetto a quella di cui noi abbiamo bisogno, ma mostrano in modo molto chiaro invece come attuare certi processi e che tipo di ricadute effettive questi processi hanno. E quindi lui ha avuto il merito di codificare questo metodo riproducibile. Sì, oggi, buonasera a tutti innanzitutto, sono Giacomo, da 3 anni giovanissimo dentro Mille Gru. Beh sì, mi considero novello, perché sul treno avviato da Dome, insomma, ne sono salite di persone, di cose, di esperienze, quindi è stato bello iniziare a collegare bene i fili di questa storia che un po' a grandi linee lui vi ha descritto. Ci siamo messi in questa avventura assieme a Nicolas Mazza e devo dire che ne parlavamo già oggi. Immaginavamo quanto materiale, a proposito di organizzazione, deve aver selezionato per arrivare a questo numero di pagine, 270 circa, in più di 40 anni di esperienza. Quindi la seconda edizione è del 2017 ed è questa a cui facciamo riferimento, ma la prima edizione è della fine degli anni 90, quindi il materiale... 2003, ok. Quindi ha accumulato davvero tantissimo materiale su cui mettere le mani, in cui cercare di ordinare, a proposito sempre di armadi che prendono una forma più chiara e ordinata. E quindi lui a un certo punto, appunto al capitolo 3, dà questo modello pratico e alla fine riprende poi con delle schede di lavoro, veramente che si possono praticamente fotocopiare e usare con le righe vuote da riempire a mo' di esercizio. Davvero io e Dome, che insegniamo a scuola, ci siamo ritrovati in questa modalità molto, se volete, grammaticale e di compito in classe. Da un lato forse uno può storcere il naso perché si aspettava chissà che, però siamo nell'ottica appunto di uno statunitense che vuole portare a casa anche un ordine nelle cose, una riproducibilità, come diceva Dome. Cos'è questo RES? Allora, RES, cosa vuol dire? R sta per ricettivo prescrittiva, E espressivo creativa ed S simbolico cerimoniale. Sostanzialmente sono 3 momenti che sono anche sono anche spostabili, non sono necessariamente da come dire impostare secondo quest'ordine. Nella prima parte, appunto questa R, viene introdotta la parte letteraria. Il gruppo, faccio l'esempio di utenti sotto terapia, ascoltano un testo poetico. ci sono delle domande, come reagiscono, qual è la loro reazione, qual è la loro sensazione. E tutta questa parte ha, ha degli esercizi, ha delle domande, e alla fine sempre Nicolas Mazza negli anni ha sperimentato dei testi di prova, ovviamente ne avrà provati centinaia, avrà visto quali in certe situazioni a seconda dei casi hanno avuto un esito positivo, quello che lui si aspettava, quello che gli utenti hanno restituito come positivo, e man mano avrà scremato, ha appunto selezionato, ha scremato sicuramente, ed è arrivato a dirci: guardate, questa lista è provata, provatela, oppure invita anche, provate voi a trovare nella vostra situazione qualche cosa di ugualmente adatto. Nella parte espressivo-creativa invece viene sollecitato l'utente, lui nella scrittura, e allora ci sono degli stilemi, ci sono delle, sempre delle modalità un po' appunto ad esercizio pensato già, in cui l'utente si esercita e tira fuori, anche questa è appunto una pratica abbastanza tipica per chi fa arte terapia, e quindi va lui a mettersi in gioco, non è solo ascoltatore, e entra un po' più come attore creativo. Nella terza parte, simbolico cerimoniale, si sottolinea molto l'aspetto del rituale, e allora si parla per esempio di momenti in cui di fronte a un lutto, di fronte a una situazione, a un appuntamento, non lo so, fa l'esempio di momenti di festa, momenti di cerimonia, di celebrazioni, biglietti di Natale, l'utente, il singolo, il gruppo vanno comporre secondo un rituale. Se c'è qualche cosa che deve essere tirato fuori, qualche cosa che deve essere cancellato, ci può essere il rituale del bruciare la poesia che viene letta nel gruppo, che è servita per raccontare un'esperienza negativa che si sta risolvendo. Insomma, la prima parte è di ricezione, la seconda più di creazione, la terza prevede un rituale che va formalizzato e deve, come dire, chiudere un momento di appunto di percezione di sé sempre migliore e di riconoscimento di un momento, di un superamento, di un miglioramento delle condizioni, meno male, come dicevamo prima. Un'altra cosa, nell'altro capitolo viene spiegato bene anche la tipologia dell'utente: il singolo, la famiglia, il gruppo, e quindi c'è la situazione, la comunità, l'ultima. Sì, la comunità, non so, individuo, il ragazzo, famiglia, gruppo e comunità. Esatto. Ci può essere il ragazzo, l'adolescente con alcuni disturbi, ci può essere la famiglia che non dialoga, e allora ci sono addirittura proprio i racconti delle testimonianze delle famiglie, ci può essere il gruppo appunto di malati, e quindi c'è una declinazione di questo secondo la tipologia dell'utente. Ok. Sì. Mazza è uno poeta o anche uno psicologo? È uno psicoterapeuta. Ah, psicoterapeuta. Nasce come tutta la prima parte del libro racconta molto. Beh, è docente universitario, esatto, psicoterapeuta, però ha una formazione da psicologo. Sì. Però il libro, in realtà, io so che questa micro storia che ho colto in parte da Laura, che in qualche modo attraversa anche questo centro, cioè la volontà di costruire un percorso universitario, per esempio di arti terapie o di poesia terapia, all'interno di una università. E per esempio nel libro ci sono proprio indicate delle modalità per avviare un percorso di questo tipo all'interno di università, e che tipo di struttura, almeno a livello universitario, loro hanno attivato nella forma, negli equilibri tra la parte di psicologia e invece quella di arte, e sono naturalmente dei processi tratti sulle università americane, e sui percorsi americani, però è interessante perché ci sono proprio degli schemi che vengono utilizzati e il perché si è scelto quel tipo di diciamo così, monteore, di struttura anziché un'altra. E quindi per noi comunque è sempre uno stimolo a riflettere su una serie di problemi che si possono anticipare se sai già il percorso e quindi puoi farti delle domande su problemi che incontrerai. Anche noi come scuola, come nuova scuola appena nata, vorremmo attivare dei percorsi di un certo tipo e anche un po' più proprio di formazione legati proprio alla poetry therapy, e naturalmente ci chiediamo che tipo di formazione deve avere un poeta terapeuta, almeno nella sua forma base, cioè cosa deve accomunare, quali sono i saperi comuni che devono avere le persone che fanno poesia terapia, e poi naturalmente su questi saperi comuni ognuno andrà a sviluppare il proprio sapere sull'ambito in cui andrà poi a lavorare e sarà poi specializzato in modo particolare, non so, col lavoro con gli anziani. Ecco, un altro aspetto molto interessante del libro è che in realtà ci sono 4 capitoli che raccontano esperienze di lavori sui bambini, sui giovani, sugli adulti e sugli anziani. E quindi questa divisione per età che riporta tutta una serie di esperienze diverse scandaglia bene il modo di approcciare con l'individuo, con la famiglia, con il gruppo e con la comunità, quando la comunità, per esempio, è una comunità di bambini, o quando è una comunità di adolescenti, o quando le comunità sono miste, quando intervenire all'interno della famiglia perché c'è un rapporto fratturato tra genitori e figli, quando c'è un problema di alcolismo all'interno della famiglia, quando e come intervenire con i senza tetto, che tipo di esperienze sono state fatte con i senza tetto veramente significative. Insomma, il manuale è veramente un manuale in tutta la sua essenza, e per noi tradurlo, leggerlo prima e tradurlo poi è stato materia per noi di grande insegnamento e di grande stimolo, quindi ci sembrava importante che questo libro venisse pubblicato. Ecco. Vogliamo leggere però qualche testo, così almeno entriamo un po' nella poesia, perché poi parliamo della poesia in astratto, non leggiamo dalla nulla. Lista, vado a scegliere dalla lista in chiusura del testo, dall'appendice. No, se no guarda, ho pescato a casa, facciamo così. Siamo all'interno di una comunità di senza tetto. C'è la fase ricettivo-prescrittiva. La poesia è stata introdotta al gruppo di adulti, 12 persone tra i 24 e i 40 anni, leggendo la poesia The Road Not Taken, La strada non presa, di Robert Frost, e invitando ad esprimere reazioni alla poesia, oppure a un singolo verso o a un'immagine. I partecipanti al gruppo hanno fatto riferimento a scelte fatte nella loro vita e all'impatto che queste hanno avuto successivamente. Alcuni partecipanti hanno affermato di dover ancora affrontare scelte e prendere decisioni che potrebbero migliorare le loro vite e quelle dei loro familiari. E questa è la parte ricettivo-prescrittiva, e vi dà una linea di possibile sviluppo e di ripercorrenza di questo tratto. Poi c'è l'espressivo-creativa. Vai. La poesia collaborativa è stata introdotta attraverso il metodo a grappolo. È emerso il sentimento di frustrazione come sentimento che il gruppo voleva evidenziare maggiormente nella poesia. Ed è uscito questo testo. Ecco, poi di fianco a metodo a grappolo c'è Rico, cioè colui che l'ha ideato questo metodo, Rico 1983, quindi ci sono dei riferimenti, e poi naturalmente c'è la bibliografia in fondo per recuperare la fonte principale. E da questo lavoro di gruppo, attraverso questa poesia a grappolo, che da cui già si capisce insomma il processo come è avvenuto, è nata questa poesia Frustrazione, si intitola. Vuoi gridare a qualcuno? Solitario, intrappolato, la mia casa, la sua casa. Le nostre vite sono libri aperti, un'invasione della nostra privacy. Ci fa sentire bambini e la rabbia irrompe, la schiena contro il muro. Tempo, pressione, pressione. Voglio stare calmo, i miei figli non c'entrano. Stress, stress, stress. I miei capelli cadono, solo i miei figli mi fanno andare avanti. Senti di voler rompere i muri, ma è solo un sentimento. Frustrazione. Ecco, la poesia collaborativa è stata ben accolta e i membri del gruppo avevano il desiderio di scrivere un'altra. Quindi, cos'è successo? È stata composta la poesia dal gruppo. Sono emerse in realtà tutta una serie di frustrazioni del gruppo, che però sono delle frustrazioni condivise. E quindi quello che poi in realtà differenzia la poesia terapia dalle altre arti terapeutiche è che il centro di snodo, di ricerca, di lancio, di input è la parola. È la parola che fa sempre da smistatore o catalizzatore rispetto alla musica, rispetto all'arte visiva, ma poi in realtà tutte le arti terapeutiche hanno il comune obiettivo di riportare in armonia o in riconnessione le persone che vivono un forte disagio, che vivono un trauma, che vivono una sconnessione con il proprio sé, per mille ragioni, e quindi il tentativo è di farlo però attraverso la parola. Non perché la poesia terapia sia più efficace delle altre arti, ma perché in alcuni casi la poesia terapia può andare più in verticale, più diretta, e mentre in altri casi invece con altre persone funziona molto di più la musicoterapia o le arti visive. Però quello che noi adesso stiamo cercando di fare è di portare a servizio questi strumenti e far sì che poi in un percorso di aiuto all'altro o di autoguarigione si possa anche passare, e questo per esempio Mazza lo racconta molto bene, da una pratica artistica ad un'altra, e quindi in realtà si faccia un lavoro magari all'inizio proprio di arte terapia o di dramma terapia e poi si utilizzi con cognizione di causa la parola, perché con la parola che magari è venuta fuori attraverso un gioco di ruoli avviato attraverso la drammaterapia si vada poi a condensare attraverso un testo poetico, e questo testo poetico ci dice delle paure che sono: non voglio che i miei figli vengano coinvolti nel mio crollo, voglio che, insomma, tutta una serie di cose che in realtà il gruppo racconta lo racconta perché in una situazione di condivisione e di protezione. Alla fine dice: le poesie collaborative parevano dare potere al gruppo, dando voce alle loro preoccupazioni, alle loro forze, alle loro abilità. Dopo la discussione è stato importante e interessante notare che due membri del gruppo hanno condiviso le poesie scritte individualmente. Quindi c'era stato un contributo, anche che poteva essere personale, privato, che poi è stato condiviso mentre non era richiesto. Questo è interessante. E poi c'è la parte simbolico-cerimoniale, dove dice che questa componente della poetica terapia è stata dimostrata dalla condivisione e dalla lettura di poesie da parte di membri del gruppo, facendo sì che la loro voce acquisisse forza e valore. Inoltre questo elemento si è sviluppato facendo incontrare a fine seduta il gruppo di bambini con quello degli adulti. E i bambini hanno portato i loro lavori artistici e gli adulti hanno condiviso alcune poesie. Questo scambio reciproco ha ricevuto una risposta molto positiva da parte di tutti i partecipanti. Va bene, adesso, poi dice: sì, vi abbiamo estrapolato un'esperienza, perché in realtà adesso questo esempio ritorna in vari modi all'interno di tutto il libro. Per noi perché è stato edificante tradurlo, leggerlo ed apprenderlo? Perché naturalmente noi, quando avviamo delle pratiche anche in condivisione di equip, ci poniamo degli obiettivi. Quando per esempio una scuola ci chiama e ci dice: il nostro obiettivo è far sì che si non so, i componenti della classe non sono in relazione, cioè sono individui ma non sono un gruppo classe. Il nostro obiettivo è far sì che invece si riconoscano anche come gruppo. E quindi la richiesta è, attraverso pratiche di poesia terapia, che comunque noi facciamo all'interno della scuola perché proponiamo poesia, riusciamo a migliorare questa condizione, riusciamo a togliere, ridurre il grado di conflitto che esiste tra il bambino e l'insegnante di sostegno e tra bambini, il processo di bullismo che in questo momento è un po' troppo alto, come facciamo ad abbassarlo? E si sviluppano tutta una serie di processi che servono effettivamente a darci questi obiettivi. Però spesso questo libro ci ha aiutato a focalizzare meglio gli obiettivi e aiutarci ad arrivare prima al risultato che ci eravamo posti. Quindi questo è un po'. Poi, vabbè, fateci domande, sennò qui. Poi più andiamo avanti, più ci accendiamo, attenzione. Sì. È documentato in questi testi? Allora, in questo libro in realtà ci sono delle esperienze di 2 anni e non c'è questa qui di leggere con cura, così si chiamava, ed era un'operazione in realtà di poetry therapy veramente molto semplice, che aveva, ed era questa, abbiamo chiesto a 7 poeti di scrivere un testo che potesse portare positività nella persona, anzi 6 poeti. Questi 6 testi sono stati pubblicati su delle cartoline e la 7ª cartolina era vuota e questa 7ª cartolina poteva essere compilata dal paziente. Avendo uno sviluppo di 7 giorni, i reparti erano quelli a lunga degenza, quindi per esempio poteva, l'ortopedia ti permette di avere un percorso di un certo tipo, e la cartolina in realtà era molto importante da chi veniva data, perché all'interno, questo processo all'interno di un disegno più largo che si chiama, insomma, di processo di umanizzazione dell'ente ospedaliero. L'idea era che in realtà la cartolina funzionasse anche da pretesto per permettere una relazione diversa tra volontario e degente, tra infermiere e degente, che non fosse chiusa al rapporto sto male, sto bene, cartella, medicina, cura, cioè tutta la parte in realtà scientifica che standardizza il rapporto e la relazione col malato, e che invece venisse preso in cura il degente nella sua totalità. E quindi non solo la malattia, ma anche l'essere umano tutto. E questa era un po' l'operazione. Quindi era un'operazione molto delicata, cioè nel senso che non era invasiva, permetteva al testo di costruire anche con il proprio sé un certo tipo di... Quindi sapendo che finivano in determinati reparti, anche i testi venivano un po' pensati in una certa maniera. Sono stati fatti anche degli errori, che se volete uno ve lo racconto, è stato un aneddoto molto significativo, perché la poetry therapy è molto potente, nel senso che siccome la parola è concentrata, è molto più efficace in verticale, come dicevo prima, quindi molto più precisa come intervento rispetto alla biblioterapia, però se la usi male fa molto più male, ecco. Quindi bisogna essere molto attenti, per quello che è importantissimo fare letteratura, leggere, conoscere, formarsi, perché naturalmente le ricadute poi sono molto positive, ma anche molto negative. In generale la poesia fa sempre bene perché è terapeutica di per sé, cioè di fatto la poesia terapia, a voler essere rigorosi, è intrinseca nella poesia. L'aspetto terapeutico è proprio della poesia. Cioè chi scrive scrive, già nello scrivere va a colmare un vuoto, che sia un vuoto individuale, che sia un vuoto così sociale, e che sia una persona che poi diventa un poeta, o che sia semplicemente una persona che in realtà scrive per sé e magari tiene chiuso nel cassetto per tutta la vita quel testo, ma in realtà il processo di scrittura è quello che descriveva il professore prima, cioè la scrittura ti permette, o anche la dizione ad alta voce, di prendere distanza e quindi di guardarsi, di capire che cosa di me questa poesia mi racconta, che cosa mi fa risuonare, perché ho scelto proprio questo testo, e quindi entri in un rapporto in cui finalmente hai ti dai la possibilità di guardarti a distanza. E naturalmente, se poi questa operazione avviene non solo in autonomia, ma con di fianco delle persone che hanno un certo tipo di formazione, questo avvia quel processo di aiuto e di crescita o di superamento di traumi piccoli e grandi in modo molto più profondo e rapido. E in questo caso veniva dato una volta al giorno in questi vari reparti, e la cosa però importante è che finalmente il degente aveva un luogo in cui non ricevere la cartolina, a parte che la cartolina non aveva, diciamo così, il francobollo, e quindi poteva il degente passare in un ruolo di persona che cura l'altro, perché io che ricevo questa cartolina che mi ha fatto bene prendo un francobollo e la spedisco a un'altra persona, quindi non sono solo un degente in questo momento, ma posso cambiare il mio ruolo. Questo era il primo passaggio. E poi la settima cartolina invece dava uno spazio in cui finalmente uno poteva scrivere nero su bianco tutto quello che voleva, di positivo, di negativo, di entrare in una relazione diversa, e quindi entrare in quella dimensione di ascolto, perché spesso la frustrazione vera all'interno di un ente ospedaliero è che nessuno ti ascolta per come tu vorresti essere ascoltato. Cioè non si può ridurre un disagio semplicemente schiacciando il campanello e dicendo ho bisogno di questo, ho bisogno di quest'altro, no? Forse c'è qualcos'altro che si può scrivere dentro questa cartolina e che finalmente ha un luogo in cui poter versare questo disagio, poterlo anche dargli la parola, dargli forma, dargli parola. Questo era un po' il lavoro. Poi in realtà in alcuni casi, in un caso, quello di Lecco, abbiamo fatto dei testi appositamente per tutte le aree della comunità ospedaliera, quindi per chi lavora in reception, per gli infermieri, per i medici, abbiamo scritto appositamente per loro, abbiamo fatto dei percorsi con loro, dei volontari. Queste cartoline sono poi diventati dei pannelli applicati nell'ospedale. Quindi in realtà cosa succede? Che chi entra legge queste poesie, i familiari leggono queste poesie, i medici leggono poesie, e quel luogo è un luogo non dove viene reiterata l'esperienza della malattia con delle persone che continuamente ti chiedono aiuto, in cui tu poi soffri di burnout e quindi quando entri in burnout cominci a abbassare il livello di umanizzazione, cominci a rispondere male, ad essere secco, ad essere asciutto. Insomma, riavviare invece un percorso di altro tipo, e questo era diciamo così il livello più alto a cui siamo arrivati, è stato questo. Però lì bisogna avere i fondi, no, e trovarli anche, è capitato una volta in 10 anni cioè, il sistema sanitario è disposto ad accogliere esperienze, un'altra esperienza che vi posso raccontare, fatene non è così semplice, nel caso nostro a qualche anno fa noi abbiamo fatto esperienze in strutture convenzionate, adesso è diventato sempre più difficile, ecco, cioè, quindi è bello sentire che a Milano si riesce ancora a fare questo tipo di cose, anche lì è diventato difficile. Con grande, veramente grandi difficoltà, anche perché ecco, un'operazione importante che La ricaduta di avere una casa come una rivista online è il fatto che le persone che collaborano e scrivono hanno un grado di credibilità diversa. Cioè io che vado in un ente ospedaliero e dico sarei disposto anche gratuitamente a fare un percorso di poetry therapy per i degenti e non sono l'unico in Italia. C'è questa rivista, ci sono degli esperti e ci sono dei libri che non sono scritti, che non sono lì scritti in inglese negli Stati Uniti e che noi sembriamo il paese in cui non, no, arriva sempre tutto per all'ultimo in ritardo, e invece è un lavoro di intanto non ti senti più solo, uno, e in più hai dietro qualcosa che ti fa dare, ti restituisce credibilità. Ed è veramente molto importante. Noi già adesso sentiamo che c'è un altro tipo di respiro. No, noi siamo un'associazione, abbiamo la rivista, però non è facile comunque. Nel senso, e anche questa cambiate le condizioni. Noi per esempio, nonostante a Epcis, per tutto quello che ci ha raccontato Laura e anche quello che poi abbiamo letto noi, fa un lavoro storico da questo punto di vista e anche molto più approfondito sul piano scientifico del nostro, però per esempio noi non lo conoscevamo e invece grazie a questa situazione siamo riusciti a venire in contatto e ora possono per esempio nascere delle belle sinergie anche tra noi e voi, noi assolutamente in totale piena umiltà. Ecco, vi stavo raccontando un'esperienza che ho fatto io a Melbourne quando mi ha chiamato l'Istituto Italiano di Cultura di Melbourne per fare una serie di azioni legate alla poesia, ma anche un'azione di poetry therapy all'interno di un gruppo di persone che ormai vivevano in una struttura, un COESIT, che è una sorta di casa di cura per italiani, e che vivevano l'esperienza, uno, dell'abbandono e da parte dei familiari, come può accadere a un anziano che viene messo in una casa di cura, ma due, anche la consapevolezza e che essendo nell'ultima parte della loro vita non avrebbero più fatto ritorno in Italia. Cioè finché hai una certa età pensi vai ci ritornerò, vivi anche in questa dimensione. Quando invece entri in una struttura del genere, quella nostalgia del proprio paese prende tutto un altro sapore. E allora con loro abbiamo fatto una riflessione su quali parole volevano riportare in Italia e riportare ai propri cari. Su quelle parole che loro hanno indicato, abbiamo fatto tutta una riflessione, poi a livello proprio eravamo in gruppo, quindi come lavoro collettivo, e poi abbiamo composto un testo. E questo testo poi l'abbiamo pubblicato e l'abbiamo distribuito ai familiari di queste persone, e quindi lì diciamo così c'è stata una dimensione collettiva condivisa e quel testo ha preso proprio una forma di lascito e finalmente anche di spazio in cui si dice ciò che uno vuole lasciare come segno finale, no? Agli altri. Seguirà il dibattito. Seguirà il dibattito. Grazie. E ringraziarvi anche della esposizione del vostro metodo, del riferimento a questo autore americano. Sarebbe interessante. Ci sono molti punti che condividiamo, che seguiamo senza avere una coscienza degli step, e altri però che sono ancora sotto un'analisi organizzativa. Il Miura anni fa ha impedito l'uso di psicoterapia, lo sapete, perché la terapia può dare soltanto uno psicologo formato. Allora io mi sono chiesto, e il problema che non ho pienamente risolto all'interno della mia scuola, neanche noi, che cosa realmente è fondamentale, no, nella formazione dei didatti, degli operatori. Allora, si capisce che un'esperienza guidata come quella che fate voi, con questa precisa sequenza, eccetera, è di per sé didattica e formativa per i futuri operatori se prendono parte in questo team. Questo non c'è dubbio. Però forse non basta, perché si tratta di stabilire o di creare gli orientamenti generali del rapporto tra tecnici nella poesia-terapia e altre figure che poi avete invocato, di cui avete chiesto aiuto, psicologi e sociologi, non so, anche sociologi, non lo so. Ma questo è importante. Quali sono le competenze condivise che devono avere tutti quanti? Cioè, uno psicologo che viene ad aiutarvi capisce qual è la struttura psicofisica, psicologica, senza entrare, no? di una esperienza di poesia, perché il suo aiuto può essere migliore se non lo capisce, può essere più tecnico e più neutro e più efficace se viene sintetizzato bene dall'operatore, oppure assolutamente inefficace perché è su orizzonti troppo diversi e divergenti. Questo. Quindi che cosa deve, come si deve formare un poeta terapista? Noi abbiamo anche altri settori, dalla musica, la danza, il teatro. Quali competenze deve avere? E questo è un problema molto annoso. Giustamente la tua richiesta di stabilire una connessione accademica formativa dell'università non è banale e si illumina particolarmente se tiene conto anche di questo problema. Perché essere poeti terapeuti, sapere seguire e suggerire delle esperienze di condivisione, mi è piaciuto molto questo vostro inquadramento del bisogno individuale che voi sollecitate di essere anche un gruppo in certe fasi di sostegno della psiche. Ma ci sono altre esplosioni che non, a mio avviso, insomma, la mia esperienza, non è così facile controllare. Quindi sarebbe proprio da discutere in una specie di dibattito da pubblicare, alla fine, quali sono le competenze minime di un insegnamento di poesia-terapia che non può che essere una sorta di specializzazione di competenze anche psicologiche e di cultura anche letteraria. Ma sono ambiti che vanno approfonditi. Poi, per la pratica e la differenza, io condivido molto delle vostre posizioni, anzi ammiro l'uso che voi fate di questo metodo americano, e così da ordine all'armadio, alla roba nell'armadio. Il rischio che può essere un po' più troppo rigido, ma questo tu ne hai accennato, perché le esplosioni imprevedibili possono comparire immediatamente e non alla sequenza, cioè nell'ascolto. Io una volta ho fatto un lavoro, no, era un video che facevo vedere degli amici, e questi amici avevano cose anche delle conoscenze che volevano ascoltare e che sono andati in crisi psicotica perché il tema era molto forte e toccava direttamente, come tu hai sottolineato, nelle tematiche. Quindi queste sono le competenze. All'interno di questo noi siamo in uno spirito di revisione della psicologia che recuperi proprio la dimensione psicocorporea come realtà psicologica. Sì, sì. Non è che uno si porta presso il corpo, dice che mi porto le gambe, porto i piedi, se mi inviti, no, è un'esperienza unitaria. Questo tipo di cultura è anche da introdurre e da introdurre in un dibattito sul formativo. Ma il tema di fondo, io non vedo una soluzione rapida in termini accademici, accademici formali. Sì, sì. Per adesso, tante grazie, ho imparato molto dal vostro Ma noi comunque non usiamo il metodo RES, noi abbiamo illustrato un metodo che è quello di Mazza, ma all'interno del libro ci sono più metodi e noi di volta in volta ne utilizziamo uno e un altro, e prima di leggere questo manuale non sapevamo neanche che quel metodo lì che stiamo utilizzando, come diceva Laura, si chiamasse RES. In un certo modo. Quindi in realtà ci stiamo alfabetizzando anche noi su quello che stiamo, quello che abbiamo fatto. Sì, sì. Un elemento importante è la supervisione da un lato, in cui si condivide l'esperienza, e non soltanto per casi critici, soprattutto per individuare quali sono le categorie fondamentali della comunicazione del terapeuta, del poeta terapista. Perché gli stili comunicativi sono la base di tutto, non solo lo stile di lettura, eccetera, ma proprio lo stile di porgere una domanda, che si può porgere in mille modi, di aspettare una risposta con impazienza, con eccessiva calma, con una differenza. Attenzione naturalmente formale, ma indifferente. Questa consapevolezza è importante nella formazione del terapeuta, del poeta terapeuta, come del resto di tutti i terapisti. E questo l'università non è in grado di fornire, ma credo nessuna università del mondo, perché poi delegano alle scuole specifiche di settore che hanno il difetto di essere settoriali. Psicodinamici soltanto, cognitivisti soltanto, che sono una sottolineatura di un aspetto dell'essere umano trasformato in osservazione di un solo aspetto dell'essere umano che nella grande maggioranza dei casi è risolutivo delle problematiche, ma non di tutte. Quindi gruppi come abbiamo proposto per i psicologi e per i medici pratici, Balint, non so se tu hai conoscenza di questo. No. Sono lui e la moglie degli ungheresi che hanno proposto degli incontri periodici con medici pratici, psichiatri e psicologi, laddove il medico pratico comincia a scoprire che cosa c'è, si nasconde dietro il linguaggio della richiesta di denuncia della propria malattia, di richiesta di bisogno del farmaco, e dietro che maschera un bisogno che il medico non riesce a leggere e che legge soltanto meccanizzando in termini puramente sanitari. Ora, la meccanizzazione sanitaria è anche una salvaguardia dell'andamento medio del controllo della salute, ma la capacità di leggere che, per esempio, quando chiede questa noiosa paziente qual è di scrivere il farmaco, non è del farmaco che si interessa, è che vuole l'ascolto. Ecco, questo aveva fatto qui ci sono un po' raccontate l'esperienza per i gruppi che noi qui proponiamo, ma che non abbiamo ancora ampliato. Come devo dire, quando Lone ha parlato del fatto che poi anche tutto lo stato dell'ospedale ha portato a parte di verso, ho pensato subito a Bali, hanno fatto un intervento terapeutico di quel tipo di segno, non è che interessante, c'era tutto lo stato. Sì, poi diciamo i gradi di riuscita dipendevano un po' dal gruppo, perché c'erano i gruppi recettivi, più recettivi, altri intenzione. Poi vedo anche te. Il discorso dell'armadio in ordine, no? È molto interessante. Quindi è Laura, il tuo armadio sta creando un ordine nel suo disordine. Noi dobbiamo sempre fare i conti col fatto che quando parliamo in generale di arte terapia parliamo di qualcosa di abbastanza nuovo, moderno, pionieristico, appunto, questo che da 40 anni non so tanti. E allora mi viene in mente qualsiasi tipo di disciplina, qualsiasi cosa che si è poi studiato come una teoria, anche lo stesso linguaggio, si è prima parlato, poi si è sistematizzato. Io penso sempre alla prima volta che qualcuno che ha inventato la grammatica ha detto: hai usato il congiuntivo? Chi io ho usato il congiuntivo? Chi ne sapeva che aveva fatto una frase ipotetica? Non lo sapevano, lo faceva già. E in questo io vedo in loro che dal punto di vista pratico fate della roba molto concreta. Beh, il nome, diciamo, nominare le cose vuol dire sì, creare. Già creare. Sì, sì, poi gli americani sono molto bravi nel brand marketing, cioè il nome, sì, insomma, però... ti ricordi quando c'era il walking? Ah, sì, certo. Uno andava a camminare, non sapeva di fare il walking. Però camminava. Tutti vestiti con la città, però insomma, beh, Nordic walking, no, Nordic walking era no, per esempio, un'esperienza che secondo me è molto affine alla vostra è la ricerca che stiamo facendo, su cui poi noi di volta in volta annotiamo tutte le reazioni su come dire il testo poetico a seconda delle parti. Cioè, noi stiamo lavorando da un paio d'anni su dire il testo in una determinata parte anatomica, quindi ai piedi, alle mani, all'orecchio, al cervelletto, quali parole funzionano, quale intensità funziona, quando che tipo di ricaduta ha una voce maschile che dice in quel modo, che tipo di ricaduta ha una voce femminile. E poi abbiamo cominciato a lavorare non più come singoli, ma come intero gruppo, quindi può essere che il trattamento vocale semantico, in questo caso, perché c'è sia la parte sonora che la parte di significato, avvenga quando ci sono 4, 3, 4, 5 persone che intervengono sulla stessa persona. E quindi l'intervento, quando la persona viene sdraiata è in una posizione in cui è stato portato in, diciamo così, in equilibrio, in, diciamo, in posizione zero, in quel momento intervengono poi chi sulla testa, chi sulle orecchie, chi sulle mani, chi sui piedi, per fare un lavoro in modo tale da ritrovare proprio una totale armonia all'interno di chi riceve questo messaggio-massaggio, perché in questo caso il messaggio-massaggio avviene, e come per esempio il significato, mano a mano che il processo di massaggio-messaggio avviene, si smaterializza, come per esempio su quali persone l'abbandono del significato della parola avviene, quando avviene. E a un certo punto la persona non ascolta più il significato, ma resta la parte più che sembrerebbe quella più aerea, cioè il suono della parola, ma in realtà è quella che dà più radice, perché poi l'aspetto semantico arriva dopo, il significante arriva dopo, cioè il significato resta, il significato si smaterializza, e resta invece la componente che sembrerebbe quella più aerea o aeroforme, e invece ed è quella che più a livello di messaggio penetra nella persona. E questi, ci sono per esempio studi chiari su come per esempio insegnare, il 70% del messaggio passa non da cosa dici, ma come lo dici. E solo il 30% è assegnato al suo significato, perché crea apertura, crea accoglienza, svuota il bicchiere. Come svuotare il bicchiere e mettere nelle condizioni l'altro di avere un bicchiere vuoto e non pieno? È chiaro che se io sono per esempio una persona che crea conflitto con l'altro, l'altro è indisposto nei miei confronti, e quindi anche se dico delle cose interessanti, anche in modo affabulatorio, non sono disposto ad accogliere informazioni da te. Insomma, tutta una serie di aspetti. Il problema è importante che noi studiamo e che abbiamo studiato, adesso dovremmo di più focalizzare. Quello che noi esatto, quello che stiamo cercando di fare è di portare tutta una serie di. Abbiamo notato, per esempio, che ci sono alcuni suoni che anche sono molto fastidiosi ad una certa. Anche se sussurrati, però danno fastidio, molto fastidio, perché per esempio le parole ricche di Z subito rievocano la zanzara, e quindi c'è un fastidio con la Z, soprattutto naturalmente se la Z è dura e non dolce. Se non è la Z di Zorro, quindi... Insomma, quelle sì, comunque la dolce, o dolce o dura dà fastidio in generale, e quindi in quel caso il testo rischiate che vi danno uno schiaffino. Il test, sì, c'è la reazione, la reazione che c'è, che ci sia uno spostamento, oppure che comunque chiusa la, la pratica, chiusa la sessione, venga registrato un fastidio di mentre tutte le etere liquide, naturalmente le vocali invece sono, le vocali sono portatrici di armonia. Infatti noi abbiamo una lingua considerata molto dolce dalle altre culture perché è una lingua ricca, come racconta anche Dante, ricca di vocali. Quindi ha esattamente la, diciamo così, il disegno della lingua italiana è perfettamente rintracciabile nel paesaggio collinare toscano. Dolce. Nel senso che ha nel rapporto tra consonanti e vocali un movimento ondulatorio molto morbido nei passaggi, cioè quel passaggio vellutato che non so, un tedesco sente, uno slavo sente, un turco sente, in realtà ha un corrispondente nella, proprio nel paesaggio toscano. Sì. Però sì, bisognerebbe raccogliere delle statistiche. Ma questa, diciamo, questa è la mia riflessione, però non io so quando se sento parlare in tedesco sì. Mi eccito. Nonostante sia pieno di consonanti, come il film, certo. Ci sono pure poi ci sono tutta una serie di aspetti. Ci sono quelli che praticano i bomber, certo. Il mio toscano è pieno di vocali, ma le consonanti sono due le aspirazioni che fanno un'impalcatura che possono dar fastidio. Invece, possono essere piacevoli se si studia tutto l'andamento di una frase. E noi su quello studiamo. Sì, l'ultima amicizia che qualche anno fa, quando eravamo ancora all'università, io ero professore, io aiutavo un po' a seguire le tesi di laurea e molte che riguardavano questi aspetti, diciamo, della comunicazione. C'era una ragazza che voleva fare la sessuologa che promuose questa tesi, questa ricerca, la tesi di laurea sulla seduzione e sulle frasi seduttive. Allora insieme a me, io mi interessava proprio questo tema del come più che della frase, come una frase seduttiva con un contenuto seduttivo veniva detta in tre modalità diverse, poi c'era una frase neutra che veniva detta nelle stesse tre modalità diverse, una frase che spingere l'intelligenza su banalizzo. Ed era schiacciante la vittoria dell'aspetto prosopico. Cioè, era una voce maschile che parlava a donne, diciamo, dello stesso. E venivano sedotte dall'aspetto prosodico, nettamente molto di più che dal contenuto. Anche cioè, quando dicevo quindi quella respingente. Sì. Era proprio schiacciante. Cioè, ma tipo come una respingente? Ma era una cosa proprio... Era molto non era così, con questo già a te piacerebbe. Ma mi dicono quella parolaccia in italiano, era citando a proposito, ma continuamente c'è una vocale prolungata e due Z, per sottolineare un ingresso nella morbidezza e la durezza della situazione, che si di solito ha un uso deprecatorio, almeno nel dialetto romano. Sì. Cioè la parola cazzo è penetrante, questo è io non vado bene, non c'è. Cioè descrive esattamente tutto l'atto nella sua complessità, sì. Dall'inizio, dai preliminari fino a. E molte volte è no, nel senso, effettivamente adesso pensandoci, vedo proprio i preliminari con K, la Z e l'O finale, quindi c'è proprio tutto il processo dal preliminare all'orgasmo. No, infatti caspita è un eufemismo. Sì. Sublima un po', svia. Sì, per infatti anche quello che diceva Roberto prima. Noi abbiamo fatto una volta una presentazione in un piccolo convegno di poesia terapia, non di poesia terapia, ma di arte e letteratura e psicologia. E noi abbiamo presentato un dialogo di Amleto in tre, recitato secondo tre intenzioni diverse. Questo per sottolineare l'importanza che ha l'intenzione comunicativa e quello che uno vede nell'altro. Allora si trattava di Amleto, il dialogo tra Amleto, il patrigno e la madre, e secondo come il lettore o l'attore vedeva Amleto, cambiava tutta la performance. Senza, lì non abbiamo analizzato i vissuti di risposta. Perché qualcuno potrebbe dire: Amleto è un uomo arrabbiato, Amleto è un pazzo, schizofrenico, senza connessione, Amleto è un depresso. Quello che io vedo in Amleto è la guida per come io reciterò, consapevolmente, in quel caso consapevolmente, e questo è molto interessante, perché quello che osserva il terapeuta, come quando lo osserva, influenza tutta la comunicazione, non soltanto il suo stile, ma che cosa, come definisce l'altro, se è soltanto un paziente specifico o un essere umano. Allora, uno dei temi su cui noi ci soffermiamo, è, non so in che misura siamo riusciti a trasmettere questo massaggio intellettuale, è il fondamentale, è dare la percezione all'altro che noi riconosciamo il diritto alla sua esistenza. Questo è l'aspetto di ogni comunicazione, che si approfondisce poi in mille modi e forme diverse. E non so se sempre i terapisti capiscono questo. Beh, questo è veramente un nodo, nel senso che se noi andiamo a vedere tutta la letteratura legata ai suicidi, per esempio, spesso nella storia dei suicidi quello che emerge è proprio che la persona che è arrivata al suicidio non riconosce a se stesso il diritto all'esistenza. Costruire nel linguaggio e nell'uso della prosodia questa consapevolezza nell'altro della sua esistenza è fondamentale per un cambiamento. È già il primo raccordo psicofisico di un'eventuale frammentazione, può essere superficiale, neurotica o profonda, neurotica. Comunque abbiamo ambiti di ricerca che possiamo condividere anche con tutti. A proposito del dar senso al... Sì. È un lavoro che mi è capitato. A me piacerebbe più essere circolare che non così, perché è una relazione un po'... Scusate, immaginiamo di essere in un cerchio, perché sennò ci si crea una dinamica che non è poi così tanto veritiera. Ecco. Spostiamo questo. Va bene, Laura, se la tutti così. Come si dice detto? No, perché... Ho fatto un caduto. Anche più vicino. Vabbè, grazie a te, ciao, grazie. I libri sono in vendita comunque. Prendo questo, no, perché poi bisogna essere anche un po' concreti. Dicevi? Così date un allora sì, per il dar senso, no? Quanto la parola riesca, a prescindere dall'intenzione di significato, a darti significato, cioè attraverso l'espressione della parola riusciamo a trovare significati che non riuscivamo prima a intravedere, a sentire. Allora, ad un lavoro in comunità psichiatrica con adolescenti, io ho iniziato lì a proporre un metodo di scrittura e rap terapia, diciamo, con il modello psicofisiologico, avendo fatto il master qui della EPCIS, poi anche uno psicoterapeuta, con la scrittura appunto di gruppo con gli adolescenti, ad esempio con delle tecniche, perché poi le tecniche permettono sempre, dando dei limiti stretti, di liberare ancora di più l'espressività inconsapevolmente. Che è capitato ad esempio che dando la tecnica della monovocale, quindi solo parole con una sola vocale, stessa vocale, ad esempio con la A, quindi Sara, sì, oppure Tana, Lava, solo monovocale. Ma che facciamo? È impossibile scrivere qualcosa del genere. Anche io ho pensato, probabilmente è molto difficile, proviamo, cioè il gruppo c'è una tradizione in realtà, cioè le sei monovocali che... sì, sì, ho voglia, no, no, no. Avevo cognizione, però quando ci si mette in gioco c'è sempre, magari non esce niente, va, certo, affrontare questo mistero del non senso. E poi è uscito fuori un testo con i ragazzi, riordinando, poi ognuno diceva una parola, riordinando poi il testo, un testo di una, metaforico sui loro vissuti di adolescenti in comunità psichiatrica, con passati di sostanze, di tribunali e storie particolari, famiglie, davvero molto molto diciamo svelante di aspetti psicologici, esperienziali, che altrimenti sarebbe stato impossibile esprimere. Quindi il gruppo, attraverso questo, ha trovato senso al loro essere gruppo lì, quindi perché ha trovato una storia che li rappresentava metaforicamente, però ognuno sentiva quanto gli apparteneva quella roba lì, quella strofa, che poi è diventata la strofa di una canzone. Quindi sì. Ma lì, per esempio, anche se fosse venuto... così magari ragioniamo anche sull'aspetto estetico del testo. In questo caso, anche se fosse venuto fuori un testo magari un senso. Che non ha un senso, sì, che non ha un significato, il vero obiettivo del testo poetico può essere, cerchiamo di far sì che queste persone che si sentono individui lavorino in gruppo, che creino qualcosa, e lavoriamo sull'autostima dei singoli, o lavoriamo in modo tale che quelli che di solito restano in secondo piano vengano invece reintegrati in un rapporto dove non si sentono più meno degli altri, ma si sentono come degli altri e parte del gruppo alla pari degli altri. E questo potrebbe essere tranquillamente l'obiettivo del testo poetico, al di là del risultato poi effettivo. Quindi in realtà spesso i processi di avvio di una pratica di poesia terapia hanno un fine che con la parte estetica è più la parte etica dell'estetica che interessa, più che il bello per il bello, un po' come dicevamo anche ieri sera. Quindi non è importante che uno, cioè, fa poesia terapia perché vuole diventare un po' un capolavoro, certo. Non c'entra processo creativo, Non è un corso di scrittura poetica dove impari a utilizzare bene delle tecniche, è in realtà una via per finalmente riconoscersi, quindi riscriversi, rinegoziare la propria identità. Come dicevamo ieri sera, mi occupo molto di Poetry Slam perché grazie a questo format, cioè di Poetry Slam, ci sono delle gare di poesia. E noi venivamo da, dico noi, ma credo anche molti di voi, da una poesia vissuta solo da un'elite piccola, di solito, dove le fasce che andavano dai 18 ai 40 si sentivano respinte, cioè come un aspetto che non appartenesse a loro, al contrario per esempio della musica, dove i ragazzi ascoltano musica da quando sono piccoli. Il Poetry Slam ha avuto il merito di ricostruire una relazione positiva con la poesia e di riattivare tutta una serie di energie, di appartenenze che prima, fino a solo 20 anni fa, non erano pensabili. Invece, se voi andate per esempio in eventi dove ci sono gare di poesia, troverete un pubblico fatto per lo più di giovani, e che dove ci sono giovani che hanno luogo, un'opportunità finalmente di dire e di ascoltarci, di essere ascoltati. Cioè noi quando diciamo articolo 12 della Costituzione italiana, il diritto di espressione, il diritto alla libertà di parola che questa Costituzione ha, sembra sempre un diritto vago, di parole vane, perché di fatto non basta avere il diritto a poter esprimere sulla stampa e pubblicamente le proprie idee, ma serve quell'altra parte che rende reale e non ideale quel processo, che è l'ascolto. Cioè, io devo avere una persona che mi ascolti per permettermi di avviare veramente un processo di ascolto e di autoascolto. E se io non ho un luogo in cui il mio diritto alla parola è espletato realmente attraverso un ascolto reale, questo diritto resta costituzionale sulla carta, ma resta solo sulla carta. Quindi, per esempio, lo state andando? No, allora prima però dovete dire una poesia. Ma l'open mic era alle 20? Ma io purtroppo devo... No, scusate, però... siamo andati dritti su questa cosa perché pensavamo che alle 20 ci fosse. Noi siamo venuti per sentire la presentazione, mica. Ho visto che stiamo parlando di Poetry Slam, prima di andare via, veramente. No, vabbè, però c'è ragione dopo, cioè, nel senso, questa cosa che dice che siamo tutti prevalentemente giovani, almeno ci consideriamo tali, nel senso. Noi abbiamo anche un campione di freestyle qua. Ah? Veramente? Sì, sì. Campione qualche anno fa, diciamo, c'era Giuliano che poi si è andato, campioni sono stati già assegnati. Sì, sì, sì. Ma Poetry Slam è un mondo molto vicino. Scusate, questo mondo è, cioè, si improvvisa lì per lì o vengono sono portate poesie già scritte? Le uniche regole sono 3 minuti a testa, testi propri e niente oggetti di scena, niente musica. Cioè, si improvvisano? Sì. No, vengono testi, puoi leggere oppure andare a memoria, puoi anche improvvisare, diciamo, che però, visto che appunto parlavamo di questo tipo di poesie, che appunto con i giovani è molto No, puoi improvvisare, l'importante è che il testo sia tuo. Sì, sì. Poi in realtà mentre nel rap, nella cultura hip hop, il freestyle è ampiamente affermato, quindi l'improvvisazione è proprio uno degli elementi costitutivi della cultura hip hop, nella spoken word, diciamo così, tolto l'hip hop, non è così consueta l'improvvisazione. Quindi è raro che ci sia qualcuno che improvvisa sul momento dei testi, però ci sono. Noi cerchiamo anche di spettacolare. Io lo faccio. No, poi dico sì, tu sì. Noi cerchiamo anche di spettacolarizzarla un po' la poesia, no? Nel senso, almeno l'involucro, no? Lo spettacolo, cerchiamo di rendere uno spettacolo vero e proprio, però il poesia non lo fa. Diciamo, lo rende uno spettacolo vero e proprio. E ecco, magari appunto un ragazzo va, cioè, come va una serata, no? Gli dà quella forma di intrattenimento che non permette alle persone di non va un circolo letterario, va una serata, si beve una cosa e si sente, no? Cioè, dovrebbe essere un po' la normalità, quello che dovrebbe essere un po' la normalità, no? Però renderla normale così, perché di fatto è così, una volta così, diciamo, no? Nel mio abbraccio, no, diciamo, musica, poesia e musica. Tavarima. Tavarima, c'era il contest proprio di, parliamo di che epoca, l'ottava rima medievale, comunque facciamo proprio le c'è chi lo fa ancora, non per vana gloria, ma anche grazie all'hip hop ai contest c'è stato un richiamo di questo, ci sono stati anche gli incontri tra i rapper e i cantori dell'ottava rima a Torino, ci sono una manifestazione dove sono scontrati. E questa cosa ha riportato un po' anche il senso e il significato di queste tradizioni antiche. Non abbiamo rubato nulla all'America, è roba che non abbiamo saputo valorizzare noi, e poi abbiamo visto come grande oro quando è arrivato dall'America. Ma le nostre tradizioni hanno sempre avuto queste cose preziose. Comunque, noi tre facciamo parte di questo collettivo che si chiama Wow Uccelli Spontanei. Un fucarello ora si può. Manderei Leonardo, che è più. Qualcosa a memoria, dai. Non c'è qualcosa. E sono eventi comunque che richiamano dalle 5. L'anno scorso abbiamo fatto un torneo che mediamente aveva 100 persone a serata. No, vanno. E li richiedono i locali, i pub. Sì, anche a Roma? Ma non a Roma. Sì, a Roma. L'anno scorso abbiamo fatto il Monk da dicembre fino a maggio. Adesso invece stiamo andando un c'è po'. Castello lo quando vanno spesso. Sì. Sì, Claudio D'Angelo. Claudio D'Angelo, no? Li organizza. No, quello è il caffè letterario. Caffè letterario è la realtà. È la realtà romana e anche tra le italiane più storica. Ostiense, a Red Room. A Red Room c'è, mi pare, una volta al mese, una volta a settimana. Sì, sì. Kento e Valerio Pico. C'è Kento. C'è uno scegliente. Ah, vedi? È refero Kento, però. Sì, siamo monterranei e amici. Vedi? Cosa? Poi ti dai il contatto. No, perché è comunque interessante. Ti mando quello. Sei pronto? Sì, sono pronto. Vai. No, così almeno finalmente ho tanta freccia parlata. Un po' di poesia. Sì, la vera ciccia. Questa poesia si chiama La parte migliore. E dice: cadendo in ogni abisso senza verso, oltre tutti i confini dello spazio, fin nel vuoto più profondo, dovevamo portarci almeno un po' di luce e pensarci due volte, forse, prima di guardare le stelle nel cielo sepolte, che non abbiamo più bisogno di eroi, di qualcuno che si sacrifichi per noi, renderlo simbolo in croce, chiamarlo morto per la pace, spedire la sua bara in patria mentre un altro razzo fa tremare l'aria, mentre un'altra scheggia impazzita si immola per un bene superiore. No, qui c'è bisogno di vita. Qui c'è bisogno di voce per urlare a questi missili umani di fermarsi, di smetterla di suicidarsi, che è 100 volte meglio rallentare qualche volta, rimanere la notte sveglio accanto a chi ami, a fingere di dormire, a tentare di alzarsi e suonare, tutte le sere esultare col cuore a rogo, finché anche la luna ci implora di smettere, che non ne può più, che era abituata a sentirci piangere e non a vederci così leggeri, a cantare in ogni luogo di tutti gli amori possibili, di tutte le guerre, di tutti i viaggi, di chi non torna a casa da anni, di tutti quei messaggi che non hanno avuto mai risposta, di tutti questi affanni, di una vita senza sosta, di tutto ciò che cielo e terra intrappolano nell'esistenza. Fermati un attimo, presta il tuo orecchio a chi rende la propria anima vento, trattienilo quel momento, e la prossima volta che ti guarderai allo specchio, vedrai vibrare, libera e con potenza, la parte migliore di te. Allora, ne faccio una. Perché non ti piace. Allora, voglio augurare, diciamo, perché ho capito che forse può essere adatta a questa situazione, no? Dato che poi la poetioterapia è una strada vuota. Le strade vuote sono quelle non trafficate, no? Cui però si sta più larghi, spesso non sono neanche strade, perché se una strada è vuota non è una strada. Allora, ho scritto questa poesia che devo leggere perché non me la ricordo ancora da poco, che si chiama proprio Strade vuote. L'altro giorno ho incontrato strade vuote. Anche la tangenziale, all'ora di punta. Mi sono girato, ho visto un uomo sulla cinquantina giocare con la figlia. Strade vuote davanti a me, strade vuote davanti a lui, che in macchina giocava con la figlia. E i semafori tutti verdi. Tutti verdi li ho trovati. Strade vuote e i semafori tutti verdi. Era l'ora di punta e c'erano strade vuote, così mi sono sdraiato nella macchina, ho pensato andasse da sola, ho pensato a tutti i ritardi, di tutti i ritardatari del mondo, e mi sono sdraiato allora e ho aperto anche il tettino. Strade vuote di fronte a me e io che apro il tettino, strade vuote, vedo il cielo e io che neanche guido, e nessun incidente, nessunissima indicazione su radio, nessuna coda chilometrica, strade vuote e basta, strade vuote, giuro, strade vuote e basta, a Roma, all'ora di punta, strade vuote a Roma all'ora di punta e non dovevo andare da nessuna parte. Mi sono reso conto che se le strade sono vuote non devi andare da nessuna parte. E ho messo il freno a mano allora in mezzo alla strada, ma era una strada vuota, quindi non contava. Beh, insomma, io non so cosa avete vissuto voi romani di fronte a questa poesia, ma anche alla catarsi che ci ha aiutato, perché noi abbiamo parlato per 2 ore, ma io dopo la poesia di Leonardo ero già, ho detto, abbiamo parlato per 2 ore e in una sola poesia abbiamo capito tutto invece. Non posso dire che questa cosa funziona veramente solo a Roma, perché l'ho fatta in Abruzzo, non è che l'hai fatta no, perché è strade vuote, che sembra una cosa triste, strade vuote. E invece a Roma strade vuote, ma una catarsi totale, ma secondo me da dire dai, così in apertura di ogni spettacolo teatrale si apre così e la gente poi da adesso possiamo ascoltarci tutto, è veramente una medicina.